questa cuffetta che facendo? Ehi, cuffetta! Ehi, mi sta mandando un ghiacciolo al limone con la secca liquidissima. A chi va via la glicemia bascia, ancora reso. Pittasso cosa per bivenie, ma allora mi mangio un ghiacciolo, buono frecco, dolce mintazzo. Canta freddo. Ma sicuro sei un ghiacciolo. Buono al limone proprio. E beh, grazie. Ehi, dimmi. Se ben buttenti, sì, non i modi di giocarti con il coso, con i saltizzoni, no? No. Aspetta. E come hai fatto a indovinare? Per stanotte devo fare salciccione con cipolle. Io ti ho visto facendo la spesa. Mi hai bucato da mezzodì dal bossetto a stanotte. E ce la fai a digerirlo? Sì, me ne mangio un pezzo. Anche da di terra? No, io c'ho così di farfalla stanotte. Buoni! Poi latte di gallina domani mattina a cioccolazione. E beh, come ti dici, Guido? Coscetto e cosce. Io c'ho rispetto. Ah, Luca, ma state in varia. No, non c'è lui. Ehi, grazie a coscette di tonno. Pensavo che ti eri affugata. Magari. No, domenica ci vado. A me piace andare a mangiare, non mi piace andare così la sera, che fa il vento, il mare è già agitato. Capito? A me piace andare a mangiare nella capitale. Ok. Per la sabbia, ti punge tutto. E io voglio giocare qua a scuola, io lo sai. Ma tu lo sai? Graziano, non è teso, Graziano, che quando era giovane, con l'acqua scuta, andati all'isola d'Elba, a Buru. Partiamo da Platamona, quasi all'isola d'Elba, con l'acqua scuta, con un pieno. Ah, secondo me con l'acqua scuta funziona bene, perché la marina di sosso l'acqua è bassa, lo fai, ti diverti. Perché quando ovvio là, il mare è calmo, ti diverti un bel, ma quando il mare è agitato, non ti diverti niente. Ah, e beh, quando il mare è agitato non fanno che ti rallenta, quello sì. Ma non puoi stare, devi stare oltre i bagnanti, per regola, capito? Devi stare oltre i bagnanti a divertirti, non puoi stare in mezzo ai bagnanti. Alla girata andavo io, con l'acqua scuta e le pinne. Oh Lu, guarda se... Ascolta, io sto cavolo da alimentatore e... Allora... si chiama... il modello è... La ZG, comunque... Modello ZG, 25A, 1220. Praticamente se ne scenderà solo la... Come si chiama? La... Gli ampere. Qua se lo trovi qualcosa, lo attacchiamo, perché si sta dando gli ampere giusti. Sì, un amperometro ci vuole, non ce li ha gli strumenti. Secondo me sono imballati. Un amperometro ci vuole. Detto che ogni tanto glielo devo toccare io il trimerino per aumentarlo, perché se ne esce da solo. L'hai aperto per se c'è condensa, questa roba qua. Allora, è stato aperto qualche anno fa, l'ho fatto a Franco. Mi controllavo, poi l'altra Fabrizio me l'ha sistemato. Non c'aveva niente, mi ha detto. I condensatori sono buoni. Sarà quel trimerino. Quel trimerino cosa fa? Se ne scenderà solo. Ma dico, magari c'ha... non condensano, ossido, quelle robe lì. Non lo so. Peccato, perché è bello. L'ho sempre usato, questa me l'aveva dato Claudio. Tanti anni fa. Perché se dà problemi me ne compro di quelli switching, di quelli anche da 20 ampere, a voglia che basta, da 15 pure. Infatti. Grazie. E tu al cimierino metti una goccia di acqua, così lo blocca e non se ne accende, vero Luca? E allora? Vabbè, mi assento un quarto d'ora, là, che mi faccio una bella docciuetta, mi cambio, che dobbiamo uscire. Vabbè, ancora non è arrivata, tanto. Guarda quello che ti ho mandato su WhatsApp. Subito amore, dai, Luca. Guarda quello che ti ho mandato su WhatsApp, Luca. Ho visto un po' di con sul telefonino di chi è il tuo, Luca. Meglio di Luca, Vintendi, direi. Capa, caparoggero, attenzione, canale 45, cappa. Luca, compratelo, 30 euro lo sta dando. Chissà cosa hai visto, tu 30 euro. Blu è quel baracchino. 80 lo sta dando, cosa 30? Oh, massimo dell'offerta, gli ho scritto 30 euro. Già sono bellini, l'ho avuto anch'io. Già sono bellini. Non me ne posso nulla, me l'ha già ribatti la Ferrario, cosa me li bigliava, fa riballi, ma se si compra il mio lui, lo Zodiac, glielo sto dando. Cos'è Grazia? Se lo compri lo Zodiac, quello con la camera ecco e il microfono MB4. Certo, non è più nessuno errato, non c'è come un cane o baracchio, cosa mi compareggio, va. E di buono, io in cucina, una cameretta, prima di giammi, da chi c'è in cameretta, la poi basta che si cucina e rispondi dai libri, vero lui? No, si fa un microfono con un capolongo. Mi fa vedere la zona, come siamo contro umano, mette di macchina, quanto ne vuoi, sentiamo, spara la cifra. Così come microfono MB4, camera ecco, abbinata, e la radio, lo Zodiaco, 120 euro te lo do, tutta brocco. No, la stai dando. Io non la do, no, così la do. Vai, tre pezzi, vai. Microfono, la ecco e radio. E cosa... Diglielo tu, Flipper. No. Sì, Zodiac, aiuta, lascia il tempo che prova con il baracchino, grazie. Guarda, 120 euro, 120 euro oggi compareggi, ti dai un baracchino con la scheda accolta, ecco, il bip e vatti. Sì, vattene. Vabbè, perché lui gliela diamo a ribasso, da 100 euro, bene fanno. Mandami le foto, fammela. Cazzo c'è di un fatto di vedere la travuccia, dai bruci di no che è nata la banca, stavami un pugno a fatti la botta e mandarti via. Cosa la cassa non ammetta, boh, tu mi mandi talmente tanti di voto, tanti video, ma non siamo accorti di questo che mi mandi. Aspetta, adesso mi mangio la liquirizia, poi faccio la foto e te lo mando, perché ce l'ho nel ripostiglio con la coperta sopra. Non mi sbaglio lui, guarda di cose ma qua tu lo sai, che se ne ammetta, boh. Ehi, ora allora puccia la manta che è in letargo, capito? Secondo me lui considera 30 di microfono e non di più, tra tutto, secondo me non più di 50 euro. No, siamo qua vedendo uno Zodiac, che meno siamo qua vedendo un Saturnecco, grazie. Sì, vabbè, là, ci sta a vederlo, ma... Io sempre quella cifra lì cosa ho preso, anche se un po' cuzzozzo, comunque già quando arrivi al posto nuovo poi mi dirai lui quale adesivi che mi ha detto per quella radio, però è un casino mettere l'adesivo perché poi non è facile metterlo, come fai a tagliarlo o la lametta? Ma cosa, è una cazzata lui, l'ho già fatto, c'ha i suoi buchi, già tutto pronto, non devi fare altro che staccare l'adesivo da dietro e appiccicarlo, basta, togliere le manopole naturalmente, e stacchi e attacchi, a tutto devi comprarlo per quel tipo di baracchino naturalmente, capito? Guarda, invece è veramente bello, per il frontalino, per il resto non lo so sinceramente se ci sono gli adesivi, quello non lo so. Ah, il frontale sta dicendo, ho capito, beh, mi sento, ci sentiamo dopo. Ehi, ehi, tanto grazie, è andato a togliere la coperta allo Zodiac. Ehi, non si può scappare, non me culendi. Se mi base la foto, meno ma come lo ricordo questo Zodiac. Adesso la faccio, aspetta. Mandaci la foto tutta completa di quello che stai vendendo, no? Così ti aiutiamo a venderlo. Guarda. Tutto no, devo prepararla allora, qua c'è lo Zodiac perché mi sta. Ah, Roberto! La via ammollata. Cos'è lui che ti ha parlato sopra Graziano? Cos'hai detto? Ah, zitto, per carità, se ha fatto per me la via ammollata. Quando mi dici così. Ehi, vabbè, dai, sta poi per agosto, c'è la situazione dei candelini, dai, lo a biffete, fregatene, dai, pazienza, ormai. Se vuoi fa. Purtroppo la gente non ti aiuta, dai, ti aggappa. Se si vanno di là e chi si vanno di là pure, hai visto? Chi si vuole un piacuto di un cane in casa? Ma quello lo intendo io. Bravo! E lui? E cazzo di tutto, che care, care! Che mari! Che bava! Ma i diecchese facendo li stai diecchese? Ma comprensilo! Ma hai detto che hai collegato Santa Maria di Pisa, vero? Ehi, arrivare! Ehi, in USB con 150 watt. Beato te. Ehi, Comprate, comprate! Grazie, vedo io! No, che buona la manta, ha detto, va in letargo lo Zodiac, no? Hai capito, stai vedendo 120 euro? Ma a buffo scherzando stai, 120 euro lo Zodiac. Ma va, se gli danno 50, guarda, li fanno un favore pure, ma io so che pure chi si arrabbia era andando in mare un periodo, vero Gian Mari? Per 50 si può prendere, là, tutte e tre pizze, là, già si può prendere, 50, non di più però, ma poi aveva problemi anche per Baracchino, te lo ricordi? Funziona bene quello di Graziano, Un po' magari in carrozzeria, ma l'azzaccio, però già esce bene, là. Ma 50 euro è anche troppo, là. 50 va bene. E se no rivendiamo il mio, 150, glielo do, preciso a quello di Graziano, però il mio è nuovo. E ne sono andato lui. Grazie! Tutti molti sono. Facendo le foto. Mi raccomando, falle bene, in modo che si incanta quando lo vede. Mi sta facendo le foto. Luca, flipper, mica l'ho mandata anche a te. Luca, pigliatelo tu e te lo metti sopra in soffitta. Ma è in vero baracchino, grazie. Io che si vede? La camera ecco, forse è più una camera ecco, vado il baracchino, gira. Ecco, mi sembra un po' che sono 95 euro io. Ehi, 95 euro ho pagato io. La camera ecco, gli ho messo due staffette laterali, come mi aveva detto Gian Maria, gliel'ho applicata sopra la radio. Come larghezza e quanto è la camera ecco? Oh, la radio. E poi uguale a quello che c'è Gian Maria, già l'avrai visto. Sì, però. Imballaggio sei, grazie. Ciao Mari. Oh. E più manda la camera ecco del baracchino. No, cazzo. La medaglia infatti la camera ecco del baracchino, dai. È bellina, piccolina, è precisa a quello che c'ho io, là. Però è bellina, perlomeno, a me è nuova, è nuovo, perché l'avevo presa nuova io. E anche il baracchino è nuovo, non so via. Il Graziano funziona bene, un po' magari in carrozzeria che me l'ha data, però funziona bene quello di Graziano anche. Ma quando ti ho mandato la foto? Ma stai scherzando? Guarda la foto, cosa stai dicendo? È più grande la camera ecco del baracchino. A me l'hai mandato. Ehi, guarda. Quanto è il baracchino a camera eco? Cosa stai dicendo? Tu ti stai confondendo. Aspetta. Luca! Grazie. Guarda che la camera eco è uguale a quella che c'ha Gio Maria. La radio lo stesso, è uguale identica. Sia radio che camera eco. Ce le abbiamo uguali tutte e due. E le abbiamo fatti così come l'ho fatto io. Ma Gio Maria adesso non c'ha presente il baracchino, perché ha detto che la camera eco è la metà del baracchino. E invece no, forse si sta confondendo con qualche altro apparato. La camera eco di lunghezza è la metà della radio. Di larghezza è quanto è la radio. Io le ho applicato una staffetta a un fianco, una staffetta all'altro fianco e l'ho abbinata e rimane sempre sopraffissa, attaccata. Sino prima di abbuoni la radio, da poi bugarne la camera, che invece è tutta attaccata. Glielo stavo dicendo infatti a Gio Maria che è grande, la camera è grande come il baracchino, ha detto di no. La larghezza è uguale, Gio Maria. No, grazie, no, non te lo prende nessuno, 120 euro assolutamente. E a metà, a metà rimane, vai. La camera ecco è più piccola, che per il birichino è più lungo. La larghezza è precisa, c'è la stessa larghezza, però di profondità è a metà la camera ecco dello baracchino. Cazzo, funziona anche benissimo. Io non l'ho mai sdrigata questa radio. Sì, c'è qualche ammaccatura, il cassone, la lamiera e nient'altro. Ah, tu riboli di quante me vi vuoi, io faccio un palato di vino. Mi ti ho mandato la foto, guardatela. Ma stai dicendo a Luca che ci vogliono i polli come me per comprare la radio, vero Lu? Ma guarda, io li do non più di 25 euro, grazie a quella, a solamente alla radio. Dai, 50 euro si può pigliare tutto, ma non di più, grazie a... Io guarda, adesso ti pubblicizzo, te la metto sui mercatini, ma 120 euro, ti metto 120 euro, vedrai che non avevo nessuno, perché non è il suo prezzo. Poi la camera ecco la puoi pagare pure 1.000 euro. Oggi i prezzi giochissi, cosa vi vuoi fare? 30 euro il microfono, do, 20 euro la camera ecco, 25 euro, cosa, fai 60 euro, do. No, al massimo 100 euro posso scendere, non di meno, il cazzo. Fai a regalare la cucina da razzi gaghi vedrenti, che poi ogni tanto lo attacco quello. No, 100 euro. Bah, grazie. Guarda, proprio così, anche croce. Un mio parere, un 60, massimo 70 euro. Aspetta un attimo. 60, non c'ha neanche canali alfa, non c'ha niente, amici, su... cioè, non è niente quell'apparato lì, non va nulla. Cosa le vuoi dare? Grazie, anche quello che c'è sopra della camera, ecco, li dai. 100 euro. Gli do la camera ecco che è attaccata allo zodiaco e il microfono. L'MP4. 100 euro. Cazzo di macco non ne do. Vada allo di macco da cocciare gli. Non mi serve a me di dire. È tutto per non tenerlo lì buttato. Già lo uso una volta ogni tanto, già l'attacco. Ultimamente l'ho attaccato. Ma c'è un'altra gente sopra la camera ecco, cos'è? Niente, è la scritta che c'è della camera ecco, c'è la radio e la camera ecco è appoggiata su. E a fianco c'è il microfono. Adesso ti mando la foto, aspetta. Già ce l'ho già, ce l'ho qua. Già ce l'ho la foto. Ma c'è un portatile sopra però. Chi c'è che sono contrattenti? Quello lì è il... ce lo sto usando, ecco se sto usando. Ma che quella li dai? No, non ne do quattro, no. Si può pure unirsi, aggiunge altre 25 euro e gliela do. Ah, te, Dio. Ah, poi non ci comprerà nuda. Ne ho comprato una, grazie. Poi la mia arriva, te la faccio sentire. Ma me ne sono anche pentito ormai, vabbè, ormai è comparata Basenza, prima ero contento proprio, no, ma visto per averla, ma me ne sono anche pentito, però per come si sente gira bene, Ma se l'hai presa da fuori non serve, trovi le fregature sempre, paghi ci dinia che l'hai pagata, 50 euro. Chi mai dice vuol dire mondezza, diglielo tu Gianmarino. Non me ne intendo io, a Luca bisogna dirlo, che lui è più esperto in queste cose, vero Luca? Ma Luca è bello, però io sono inesperto. Bello, sempre il bello, lui è Archimede, lo sa già, è più a corrente lui. Aspetta sbucciando i fagiolini. Non c'è niente sotto, mi. Mi sono dei musini di gordo. Papà da te la prendi un fagiolino da un terrazzo, altri immaginecchi, Luca. Ah, ma giù che c'è sempre trudienti, ecco perché. C'è ogni cosa un trudio. C'è Giovanni, te la reghi io a casa. Ma la fai già c'ha l'attico. L'attico abbiamo a terra, c'ha lui. Sopra va l'attico, va. Fissato così, ma non l'hai visto l'altro giorno. Attaccata l'antenna. E beh, piaciuto ti è Luca. Oh, già è bello, ma il prezzo, ma a me non valgono più niente, grazie, non è più nessuno. Non è più nessuno. Ma di meno di quello non lo do, me lo tengo chiavi e non mi dà fastidio. Ogni tanto lo faccio usare, lo uso, l'ho usato ultimamente. Scusa, se tu vendi quello, 100 euro, e io quanto vorrei vendere il mio, la mia radio, il Typhoon, che ho a casa che esce benissimo, con le BB più 4 modificato, lo sai che la mia esce bene, quanto secondo te quanto vale? Ha stimato la foto della radio, ma se l'avevi già vista, e il microfono è abbastanza nuovo, almeno fai un 150 euro di più pure, però la radio se devi vale 150 euro perché è nuova. Boh, non lo so, io ce l'ho la radio nuova, chi sa, la giornata me li dirà, chiedi a Gian Maria perché l'ho presa insieme alla sua, uguale a questa che ho io, e la giornata me li dirà, e mi uso solo quella. E basta darla a Luca, te la metto in vendita. E basta mettere la porta che gli ho mandato. E poi il cane altre da prendere, là di chi in aggiugare me li pongo tutti in nata la banca, faccio le foto di tutta la roba che c'è e posto un blocco, a blocco. Sì, ma tanto grazie, solo un radioamatore ti può comprare se hai qualcosa di radioamatoriale. Paracchino ormai, ma nessuno, ma ho notato che non c'è manco propagazione. C'è anche il Washington che è una bomboletta, quello è un pezzo preistorico come antiquariato e funziona benissimo. E poi già ne ho altri. A blocco! Dai, tutto a 1000 euro. Se no da tutto a 1 euro. Oh no. Cuffo! Vabbè, io me ne sto uscendo. Ciao Gio Maria, Luca, Graziano. Divertitevi. Ciao. Mi raccomando, non mangia assai, C'è la pizza. Buona, buona. D'accordo, ciao. Cuffo! Eia, capra, capra! No, questo è sgarbi, non cuffo. Sgarbi e capra, uno l'altro giorno lo stava imitando e chi tu l'ha detto, no, mi dispiace, sgarbi lo fa più bene. E perché è originale? E allora, anche dai l'ha detto una trasmissione, puttana l'ha detto, lei è una capra, capra. Non avevi visto quella trasmissione. È un critico offensivo. Vedani, tre o quattro femmini. Non so cosa la dite, ma ciao, mi toccato la rama a parte. E l'ha detto che era una buttana. E la bella di tu capra, stai zitta. Testa di donna. Ehi, perché sono è mezzo mancato, due barolacce hanno detto in questa trasmissione. Che dia! Allora, te lo metto in vendita quella roba? Mettilo in vendita, 100, minimo 100 euro. A procubo sì, tutte e tre. Mettilo anche vende e compro su Facebook. Io adesso metto tutto così com'è, perfettamente funzionante. Euro 100. Ehi, MB più 4, ossia che tu non lo conosci che ha microfono e camera, ecco già c'è scritto sopra, e Zodiac. Attento, dottore Squallido! Attento, squallo tigre! Avrai sguazzelli in mare, Tore! Ehi! Chi è? Buboi! Ebbene, stavo preso il crabbino che lo fate bebè. Non può entrare nessuno, Luca è andato a mangiarsi la pizza. Ha fatto bene. Cazzo, ha fatto bene. E cosa vuoi fare? Lo so tutti se lo vuoi permettere la sera, specialmente il venerdì. Bah! Io me la giovaniata da poco la pizza, ui. Oh no, io una mega non mi posso la mangiare fuori, pizza non ne mangio. Mi piace un piatto composto e mangio di me. A me la pizza lo manda. Ehi, già è buona, quella. Ultimamente mi ho preso il calzone, quella pizza che chiude. Ed era ben buona. Capiate, buona sì, certo. No, è male, no. A me non mi piace, non ne mangio, capito? Beh, se non ti piace, ma con la fine ti piace. La fine lo mangio tranquillo. Quello già mi piace. E papà non è più tempo la fine, no? No, adesso no, è inverno. Vedo, anche forse già la giubagnata. No. Ogni tanto per me loro i mangiare pizza e cose e la fine e ogni tanto le trombe di bongo, ma la fine già lo mangio, però la pizza no, se voi andate a mettere la chiesa abbassata dirami mangiare la pizza, però io non ho mangiato pizza, ho giubilato calmare fritti e patato. Così che oggi ho mangiato bene, è insalata. Anche io certe volte, se andiamo in pizzeria, a volte mi prendo una fettina di cavallo e l'insalata, è buffo, ma di volte pizza non me ne pizzi. Ma quella carne di cavallo mi piace più, prima ne mangiavo, ce la diavo ogni sera la mangiavo. Ma quella carne di cavallo mi piace più. Forse anche la giovane dal gruppo. E beh, a furia di maniala la bui, ti suca la meccia. No, no, infatti, no, no. No, mi biglievo, anche poi c'è la piglia, ma mi biglia magari uno o due e se la mangiaetta, io no. No, no, preferisco un capo a collo, con questo c'è accensore buono. Ma proprio carne cavallo no, già è buona sì, però non ci mangiamo il gruppo, capito? Oggi non ha giugana, Gisina, oggi niente, mi sa che non mangio nulla. Non mangia niente, se fai l'insulina devi mangiare, ciò che è passato già fatto, ciò che è passato con cui... Pisciato, ciò che ha fattato, cazzo, ha fatto la base da manna, e le è rimasto un po' con ciò che era di voreggio, fattato e ciò che è cucuito. Già è buona, la mania della Sari, l'ha fatta a Baoletta. L'ha fatta oggi, così è bella piena pure, la gioco è bella piena. la giubilata gli sui le cose che mi vincerà a cosa la a Cesaraccio se non lo campi chi dai aveva un sacchetto me l'ha giubilato e ti dico che matura è bella bella piena piena zia va c'è c'è la paletta qua nella rettina a pesare il terrazzo cocco e ciunga. E mi sa da la faccio, mi sa con quello mi sa il gioco, è battaggio lungo, anche un battaggio sta unito in gruppo, cioè, perché voi c'è già più battaggio in giambi, non faccio niente, ma non posso, lui va, faccio vedere la loro P, battaggio lungo, è buono, è veramente buono, sta unito. No, quella ci ho comprato da un amico mio di campagna sua, di bancali, e... A si scioglie su battato, un battato che pianta lui in campagna sua. E le ha preso una cassetta da quello. E beh, ma per un battato lo vuoi fare? Oh, perché voi c'è anche il battato lo vuoi mettere in modo su un vecchio che perché voi c'è il suo uomo, capito? Secondo da un è? Io sì, dipende da dove. Dai, di dove questo che mi ha che ha piantato questo qua è buonissimo. Ehi, ehi, ehi. Ma non caffri però. È parito, A beso mio, boh. Si fa, si bello. Ehi, oia, robe robe, un ettore del macchisio, boh, tutti in giro so. Ora sarà curini butti, boh, ma chi c'è l'auto baletta, non trama. Sta male che andrà a segnare al popolare, a mezz'ora e più, fa questa domanda, fa rugatramo, e chi l'ha già fatta, infatti, l'ha detto i già di vini, e l'ha tuffato entrare, la venne a pigliarsi i medicini. Da te a pigliare un cattramo? Ma chi c'è, e la venne a ordinarsi i medicini. Ah, ma fa colazione? No, è andato a pigliare i medicini barigani, ma chi c'è? Ah ecco, non era papà collisione, allora basterà, basterà se l'ha ordinato. Non ho capito cosa hai detto. Che si è ordinato le pastiglie per cenare stanotte. Per i cani, vari cani deve essere in campagna. Ehi, hai così, dai. Hai casco incontrato, ma è tornata a luce. Sapeva niente se si parava in campo. Ebbene, si ricorda la cava a fiori. E allora? Surgerà la mangiare. Luca Flipper, piunta, mozzarella e patato. Luca, il fuoco è acceso. Mozzarella e patato. Ma felici. Cos'è? Allora io vengo. Umata, mozzarella a pezzi, e da qui cosa avevi? Umata, vedi, mozzarella, e salsiccia. Ma guarda che ti ho mandato anche il messaggio scritto, leggi, no? È un'altra cosa, c'è un'altra carne che c'è. Ah, ecco, pescatore a companna, ma la devi buono in forno. No, è alla puta. Sono già nati che quella ci sta al volto di una pescatora compagna che avevo preso qua alla Divina. Già le fanno buone, sì. Ma nel forno la metti, nel fornetto. Oh, in pizzeria l'ho presa già pronta. Qui alla Divina, sotto a casa vicino alle porte. Ah, quella la rossicceria, pure i bizzi va. Carta, grazie, per 20 anni la pizzeria non sai ancora di fare i bizzi, boh. Io Marie, mi meraviglio di gufo. No, anche io, sì, chi mi ha preso che tanto male ci vuole? Però pigliavo un bollo, patate, questa roba qua. Ah, già è vero, le pizze, le pizze, ma c'ha il forno elettrico quella però. Adesso che mi ricordo. Non è elettrico, che a legna. Ah, mi pare che stai dicendo che ce l'ha dietro il tubo, ma prima un tempo mi ricordo che c'era il forno elettrico. No, me ne sa il forno elettrico, sì. Ah, forno a legna, allora già è buona. Quando aveva aperto qualche anno fa, ti ricordi, c'era la vecchia gestione, poi hanno rinnovato, hanno messo il forno nuovo, hanno portato tutte le attrezzature e avevano messo però un contenitore enorme, grande, pieno di pellet. Le vasche non ricombinava più, mentre si era accusato da buio è cominciato ad andare a legna, capito? La pellet non c'è più andata. Già lo so, adesso chi, quella che c'è adesso già la conosco, la padrona, Eda, è la sorella di un amico mio, insomma, la famiglia di là, di chi serve la va, sa via in via Cristoforo Colombo, vicino a casa, la oce a casa, i villetti, i genitori della, di quella che ce l'ha adesso. Si chiama, il cognome era, il nome non me lo ricordo, ce la conosco. Ma venne so troppi, venne una inocauci. Viene una vicino, non quella della Conad, quella della Conad ha chiuso, l'altra nell'altra traversa appena più giù, una becchionata, viene da Graziano, da La Ruota, tutti, tutti una attaccata all'altra. Ce ne sono anche qui a Sant'Orsola, in questa via principale, mi pare venissero due o tre, e già le fa buone, le prendo anche da Sant'Orsola, me la portassero a casa. Mi pare che mi piglia 50 centesimi in più a portarla a casa. La ruota invece deve andare a pigliarti laggiù, non è a ragazzi. Però secondo me la migliore è sempre stata la ruota, sempre. Anche se vai tu a prendertela, però la qualità secondo me è meglio, la meglio di tutti. La ruota già la fa buona, ma anche questo di Sant'Orsola da questa parte, in quella sabbia principale. Ti faccio un bel buoni, vero Paolo? Io ho preso il calzone fatto da questo Sant'Orsola, era buonissimo. Confronto a quello della ruota, mi è piaciuto più quello di Sant'Orsola. Come condimento, era più imbuttito, era meglio sazzito. Ma chi? Pizzicotto, quello che c'è all'incrocio, l'altro che ha aperto da poco. Quello che ha aperto da poco è qua, abita qua di fronte a me. Pizzeria da come si chiama, il nome del figlio a me. No, quello che c'era prima, il pizzicotto. Abbiamo anche una qua, ma... Ce l'abbiamo anche una qui dietro. Oh, non ne ha più pigliato, l'ha già mandato una capricciosa, mi la ricaccia capricciosa e venne da poco mondezza in mezzo. Patatine, già da porto la giusta, bisogna che tu sei avanzato la bottiglia, chissà bizza a me, ma chi sei male? Infatti non ne ho preso più, due volte mi ha fatto una cagata di bizza, non ne ho più comprato. Vai. E da quella che c'è appena giri dalla scuola lì del Pime? Scendendo verso la Bretella, lì ce n'è una. No, dalla Bretella, no, io sto dicendo qua, vicino al tabacchino che c'è qua, da me. Quello della Bretella non ne ho mai preso. Ah, da Ivan tu stai dicendo, quella dopo il tabacchino, già ho capito. Eppure quello, guarda, che lavorava per... cioè, ha sempre fatto il pizzaiolo quello. Sì, ma evidentemente ci aveva qualche altro pizzaiolo qua. Se addirittura una di non aveva neanche nessuno, ma che cammini abbia di giunta una femmina, vero Paolo? Chi ce l'ha avuta che giunta no, una femmina? No, lo padrone è giunto. Ha detto, non mi faccia va schifo quella pizza, infatti mi ha mangiato, non ce l'ho buttata. Ma Crugani ne ha voluto. Sì. Prova a prenderle quelle... Quella lì da via, adesso non lo so, grazie a quando giri dal Pime, dalla scuola, giri a sinistra per scendere verso la Bretella, appena fai la curva praticamente lì, sulla destra c'è la prima via, lì, lì in quel palazzo di fronte c'è una pizzeria. Ah, paletta, già lo sa dove, io no, però furughissimo di gente che ne va di buone, no, ma io il più, prima di passarmela da con le sottosola, me la ordinavo alla ruota e poi andavo io a piedi a prendermela, passavo da questa parte. Poi a portare Santorso, l'altro che la porta a casa, il più la prendo da quello e me la porta a casa. Se capita che è chiuso per turno, la prendo lì alla ruota, se capita, capito? Se no, il più me la sto prendendo a Santorso, ed è buon avvio. Oh, e per turno, non sta più chiudendo nessuno per turno. Prima chiedevano il lunedì, poi sono tutti a Billy, lunedì o martedì, no? 7 giorni su 7 lavorano. No, la ruota già chiude per turno. Anche questo è Sant'Orsola, vero? Non era chiuso l'altra volta, Paolo. Perché non so per cosa. Era chiuso. No, questi aprono tutti. Tutti aprono la lunedì e la domenica. Ah, qualche volta l'ho presa anche in sata di mia, e mi era una regata pensamente ai nonchi. Ma secondo dove la prende arrivi fredda? No, si sono organizzati i vani, i contenitori belli, coibentati, arrivi buzzini. Chi sa da solo arrivi bruciando, vi credi che hai detto un poco prima di cominciare a mangiare e bruciare, ti bruci di mani. E per dire me le porta in macchina, c'è un contenitore di polistirolo, ho rivestito una casa in alluminio, e dovete rivestire il polistirolo. Vero, e arriva bollendo, sembra la pesce ne dà un volo. Sì, cosa calda, Ti brucia. E io te la invito a Gian Maria, va. Organizziamo una di. E io invito a Dupaga. Vai anda, grazie. Ehi, ma Gian Maria non li biati, non li magna. Ha detto preferi più una vestita di cavallo. O se non la fai lì, tocca gettare l'inverno allora. Ah, vabbè, vabbè, da noi, cioè. Ah, può fare pure un pulcino, e abbai da una cacerati da qui, una lì, e noi nel frattempo mangiamo, possiamo fare anche così, siete d'accordo. E poi tanto che paga, voi, abbai da noi, non soffendiamo noi, abbai da mangiare. E allora, bisogna di video, A chiamare la cucina inteso di bagare e noi entrambi. Capita, Luca è proprio abbinato e venne la sera, sarra barracca barracchesi e andà a Shanti, come ti ribissi notti di avare i giovanotti. Hai capito, la faccia tua e mia, e di chi non vuole. Quando, quando si è abituati poi, insomma. E poi andai a un circolo e si buona a fare un gemi, lo sai? Ah, io ti faccio la camera, ma non cosa di chi? Ehi, tra una dazzita e l'altra, prima era solo via andava e passando in brulla ruia. Hai compreso? Un balletto qui, un balletto lì. E rientra a Manzanini, se non sono in zinco non vi torna, Bisogna stare a Londra sul circolo. No, chi sta di 30, di piccoli tennis, artista, gaccio, e batteni, cosa si dice? Che a mezzanotte devono smettere di suonare, cosa si dice, devono chiudere, a mezzanotte i bar sarra. No, da mezzanotte poi ballano solo lenti, e la musica è bassa. Infatti, era Badegno, Ruleta, Rombardo, Edo, era Bessina, la nostra sabbia che si era reggendo in piedi, uno con l'altro. Addirittura. E allora? Talmente era lento, così. Ehi, oh yeah, non l'hai visto su questo bullo? A chi la pensi buono su questo bullo? Vanitoso, E allora, prendi il gribà, non hai compreso? Capita ogni abbiato di trippa e fagiolo, ultimamente cappuccio, e della cappottabola, e doveva avere la paletta. Lo chef era bene, va che mangiare la pizza, d'accordo. La puoi andare a ucciso con la trippa. Trippa con fagioli, un amorso di trippaccio che pizza era. Alla Bud Spencer, così. Dalla paletta direttamente, va via la truzza di legno, buco. Fate la scarpetta con mezzo panino. A chi dici che è più saurito così? Questi Bud Spencer che mangiava quella truzza direttamente, Miglior me lo faccio così, faccio una cazzarola in terra cotta, ci s'amarrò. E la truzza a cucciare di legno, quando mi faccio i fagioli, così ho pure la trippa e fagiolo, la mangio così io, con un pane che tu saggio, che su di oggi lo, mi rifondo, oh yeah, su saletta le cuso. Ma Gio Maria fosse più buona però. Non lo so, cosa ci fai tu? Passa il cicci, passa un palloncino, e mi ha mangiato un piatto, Ma lo sai che cicci gonfiano, non ancora sapevo. Sì. Infatti, saluti non mangio, poi cosa hanno mangiato? Due zucchette ripiene con mezzo panino. Le zucchine ripiene e poi una fetta di melone e qua 6 o 7 ciliegie, chiedo mi sei un piatto e si abbassa un pallone. Fra poco si fa di prima brincate che ha fatto lui. ma voi credi che invece stava sgonfiando, invece ce l'ho ancora, solo che non ce l'ho, ma ne manco bassogno. Anche a me lo fa. Mi gonfia, vabbè. Arrivo a cena che pare che ha già appena mangiato. E lo fa anche a me un po' di cose. Ma me così mi duri, mi sento tirandomi ai fianchi. Figurati. A che mangi il trucco? E te pone di trucchi sulla lampada in bianco. La città Paoletta. Grave il gioco, ma dimmi tu ma mangi a me. Un piatto di minestra con due zucchini, deve avere il sabbanza così, roba la macchina. Questa roba gasata che è puro. Ma cosa, acqua normale, bevo, non è bevo acqua gasata. Per dire, ce l'ho miccio, limonate, Coca-Cola, aranciata, l'acqua, chi c'è varranzica, come si chiama, quella mi piace, però è un po' gasata, ma non lo sto bevendo. Adesso mi ricordo come si chiama quell'acqua. L'acqua tunica. L'acqua tunica che rimane amara. Ce l'ho, c'ho il Gatorade, quello verde, al limone, al lemo, e non lo so bevendo, e non è gasato quello, è sgasato, e non lo so che bevendo. Sì? E Mary? Il tegere. A te c'è Graziano che la trippa con lo faccio, la fate più buona di te. Tu già le sa le cose, già le sa, ha ragione Graziano, bravo Graziano. Tu mi ha detto che pure tu la fai la trippa, vero? Aspetta un attimo, faccio due cose. Luca, non ce l'ha voluto dire. I segreti non ce li dice, no. A parte la parmigiana, si pone un fagiolo, tre peperoncini, invece un fuoco da naso. Ve ne sono arrivati 4-5 fette di minigiana alla parmigiana, però erano i biscidenti e se la giurampati. Ha detto no, oggi non ne mangio. Non ha voluto nessuno e se la giurampati. Sicuro, te l'hai mangiate? No, che erano piccanti troppo. Come ci si sono passati, hanno aumentato la piccatura. È sicuro, buonasera Graziano, buonasera Luca. Buonasera anche gli amici in ascolto. Avanti, grazie, già se l'hai lampato, se te l'hai mangiato, da giù il me lo dice la signorina a mezzodì. Sono puro! Ehi, ciao, Bacchisi, mi sembra che c'era anche Tore, mi è sembrato. Ciao anche a te, Tore. Aspetta che si rilancia Luca. Luca, vai tu. Luca Drumito, grazie. No, che va la bissa oggi, altro che Drumito, Avanti, signor Tore, se sì. Ehi, che ci sono, buonasera. Signor Bacchisio e ciao Graziano. E a Luca che si mangia nella pizza. Vabbè, de cose. Ciao Gio Maria. Gio Maria ha detto che era venne cosa. Ehi, Luca Flipper, c'ha la pizza. E Luca, ma come o se ne esci da passeggiare? Riprendi, Bacchi. Tutti impegnati, tutti impegnati. E Marina è impegnato lo stesso, così. Ciao Tore, buonasera, non ti ho salutato, scusa. Avanti, riprendi. Sì, certo, chi tu mangiare la pizza? E tu, grazie, cosa ti hai mangiato? Un crocco. Oggi ha giovato pasta e ceci, buona reta, un patato a forza di bumata secca, bresci. Curvasini, Sioda, ha giocato questo, poi le zucchine ripiene, le melanzane, arriva di confetto a bagnomaria, verdi, e poi cacio, anche con i vermicelli, c'è salsiccia. Passarotti non giocava a drusassizzone, ma non è maggio. Vado alla bassa a fare un palloncino, Ma in te, c'è Bacchi, andiamo, andiamo. Giulia. Mangiamo, io voglio una vestimenta. Ma non una vestimenta solo, una per il ferro e una per il fio. Cosa più è detto che la vestimenta. Così è, grazie. Ehi, vai a squillendere il telefono, aspetta, riprendi tu. E allora, Gio Bacchi, casa ne vado in campagna? No, ci ne affutti. Scalzo, che sia veramente, si è pisato un murione di vento, verso il sì. Ma era il vento un calcio, però. Certo, andiamo. A ripigliare dove è sul gallo? Sì, ma l'unico è meva. Lunedì temporale. Sì, grazie a Luca Carrigato. Cosa dico, forse che sciocchi fu. Tanto non si può fare nulla, come andrà a letto. Il padrone è letto e dice, forse sembra che mi piazzi. andiamo. Non bisogna dirgli nulla, no. Come gira. Così è. Dura. Ridura. Domani sarà peggio, domani è ancora peggio. Domani e dopodomani, aumenta sempre. Avasso con venni, salsiccioni con peperoni gialli. Ah, tu grazie, se vendi peperoni gialli con mozzarella e coso. Così è, peperoni gialli stai cucinando. Ehi, col salsiccione, non quello grosso, quello più sottile, là. Ehi, lo stavo girando adesso. Ossia, già non si attacca, la padella è antiaderente. E così venni lemme, però, non c'è la faccia gonfia. Ma se fa un buco, grazie, in Italia. Fallo un buco. Torni, c'è chi mi ha mangiato a mezzodì pasta e ceci e mi ha fottito, non mi avevo pensato, non abbiamo buonato a giù, lì ceci gonfiano. Ma chi ci vuole? Ne ha approfittato di farla che non era la padrona di casa, è arrivato in sicuria di oggi. E allora, già me l'ha detto già che andai a pigliare. Le medicine, ma un cagnolino! Ehi, tu rendi era di pigliarli, in di ritorno era. Hai pinditi di naso cantato, fa lo giuccio. E il suburo di voi. Beh, chiaro che lì c'è la difesa un po' più di nappa su cani. Chi l'abbia chiamato, ma per sopprimerlo a chi tanto era soffrente. E mi è costato 80 euro, chissà, due lezioni gli ha fatto, ma minori, mi è morto subito. Ma la dormita l'ha fatto l'altra. E manco se ne ha pensato, se è dormito così e via. No, fa la buri se secondo da figliarlo. E faccio lasciato 47,90, 48 euro faccio lasciato. La burizza è male, e le zecche buono, e io non le compravo queste cose, collarino o medicina in più, barburo, le buriglia. E intanto lo state la così quando non parava giù, si appicciano la stava, sempre che cazzo che attaccavi la via. Il tuo autore non è. Oh, pensavano, però gli dovevo mettere la medicina a sta scena, invece non ha già odugato e buone vira. Domani mattina gliela metto. Ha già fatto un vaccino due di fa, 50 euro. Che medicina stai mettendo tu? Aspetta, te lo dico subito, aspetta che ce l'ho qua. Non spesso solo dal veterinario. Oh, fatti non entrare più cane in occhi. Finito, chiuso. Ti sei arrecchito un cucciuccio, avete che vi alzi. No, non ne voglio più, no, cane. Uno io non ho manco più gana di sa, prendi la staffetta a fare e a stare la piscia. Mia moglie non ha gana la testa, dunque io cane no, non ne tengo più in casa. Qui c'ho una tartaruga piccolina e due uccellini e buh. Rompimento, io ti dico che è un rompimento, scendere in campagna, gnali, nai cani non devi farà. E chi ce l'aveva da sushi? Poi gli altri animaletti del buon compagnano, una volta andato di lì, e sono tranquilli. I ciu ciu. Mio figliolo in campagna non vedrà due cani, manni, due pastori mano a mano. E farà gnali a pigliare, a punire la magna. Oh, non saranno, no, e ha detto, quando crei non entra più, non li voglio più sorbenti, però mi dispiace, cioè, è un travaglio, e poi avai non ha più gana, prima non sanno se voglia fare, e mia moglie non ha gana armata, avrà voce. No, niente, molti dici, non ne voglio manch'io. Ma che c'è quando muro, non è parola. Avanti, Tom. Sì, la medicina che gli sto mettendo è questa, Advantis. Dove hai preso? Io ho preso Strong, una cosa del genere, c'è scritto. Questa che gli metto io sono quattro fialette e gli dura per quattro mesi apposta. Non si attacca nulla, né pulci, né zecche, né zanzare, nulla. Tiene sempre bene, ben di coso ottiene. Io sono le pipette, ce ne sono tre. Ce ne sono tre pipette, capito? Però una per ogni cane ce ne vuole. Siccome il cane piccolino è 1,5 kg e quelle pipette vanno da 3 kg in più, allora devo dividerle, devo metterne solo la metà, solo brucia. No, questo che ho io, il coso è da 25 kg. Le fialette da per 25 kg, quindi non si attacca nulla, manco la zecca si attacca. Manca chi c'è più da dire, non si attacca zecca. In più oggi mi ha dato un altro base fetta la cuccia, uno spray, 28 euro. Chiatta, io una fucina avevo. Ah va, mi laggiù una, giuro, e le altre gliele devo comprare, ah non so. Poi c'è un pareggio matte, c'è lo gollare di chiccio. E debbo un grugollare. No, se lo collare non fa niente. Io l'anno passato si può collare, si più su un montone di rami collare. Il collare di coso era secca affiancato collare. No, questo è di quello a coso e non se ne ha. Ce l'aveva prima. L'altra volta ce l'avevo come di questa marca qua ed era buonissimo. No, si è attaccato manco una zecca e né zinzola né nulla. Così è, avanti che lo sia. Ma io non avevo, c'aveva il collare, sì, c'aveva anche le gocce che le mettevi sulla schiena, un tre goccette, e funzionava bene, però certe volte quando lo scendevo qui giù col guinzaglio e mi lasciava la bandava a mia moglie, sempre che secca mi la cattava attaccata, o in mezzo alle zampette, e tra un dito e l'altro, il figlio li trovava lì, e come ti camminava, E a chi per lei bazzecca, la zecca nasce, maledetta, è un guaio, per questi animali, sì. Ma guarda, mi ricordi, vediamo un poco, qualche dito, e se no vedrò andare in farmacia, e dico, che cosa che mi hai dato, fa ingrassarli o può ammazzarli? Ma chi? Bisogna poi vedere queste cose, che sennò trasmettono a noi poi le malattie. È chiaro, bisogna tenerle a bada. Le malattie poi si trasmettono all'uomo. E cosa vuoi fare? Bisogna spendere e poi scagliarsi muti. Beh ragazzi, io chiudo là. Ok, ciao Tore, ciao Bacchisio, buona cena a tutti e due, ciao Luca se sei in ascolto, e ciao Gian Maria e ciao chi è in ascolto. Ce la risentiamo domani, ciao, riprendi tu Tore, aspetto il finalino e chiudo, ciao. Ok, ciao, grazie, stammi bene, ci sentiamo alle prossime, riprendi Bacchisio. Salutiamo Graziano, buonasera Graziano, saluta la signorina. Domani tutto coincide, ce la sentiamo e ce la chiacchieriamo. Ciao Grazia, buonanotte ancora. Ehi, ciao, è nell'orto botanico alla Fiende dei Bianchi. Ciao. Ciao Grazia, ciao. E così Tom. E così. Oggi Marino non si è sentito, no? Non ne è sentito né visto nulla. Bandito diventendi. Ma che è diventato torna al nonno e un bel difficile. Poi con chi c'ho gallo? Adesso è andato al nonno, è più contento. A chi fa un asciumacitto che aiuta a tappare. andiamo. Dai. E oggi ci ho portato la macchina a mio genero, me l'ha controllata. E devo giambà un pezzo, devo giambà qualcosa di che gli dà la velocità, tipo un regolatore. Me l'ha ordinato. Allora, quando ti arrivi me lo piazza. Ma è fattibile, il lavoro fattibile da in fretta, dai. Non è giorni di lavoro, giorni di no, ma ore sì. Ehi, se devi entrare a dare della medagliera, se devi entrare. Da fare? Cavanniero e punizzere un uovo. Cavanniero invece e punizzere un uovo. Ecco, c'ho quella pedaliera. Dunque deve lavorare da dentro la macchina. Devi travagliare in cinato. Ehi, dietro nella pedaliera, in fondo, e viene un po' male anche a toglierlo. Hai compreso? Ne devi cavare un bel goso, ne devi cavare. E bene, deve cavarne il coso, il piantone dello sterzo deve spostare. E beh, se no lo dice a tuo genero per fare più veloce. Quindi la mola e deve la taglia in due, si pone un pezzo e poi la torna a saldare. andiamo. Tutto a pugnare buoni un lungo in vista. Con gli attrezzi che c'hanno in officina adesso è veloce, to. Ce lo fermano in casa perché siamo due lì. In 10 minuti ne rimonteggiano. Infatti, fa così bisogna fare. Boh, se ne può più no, è sempre in pini di nao. Pensa un po' che l'originale costa 137 euro. Quello da De Coso 77 euro. Il taroccato. Ed è sempre uguale, solo che non è marcato cosa, Citroen. Non è marcato Citroen, però il pezzo è uguale. E infatti. Ma ordinato duchisso, ma ordinato. Tanto dura, dove canto dura chi, dura chi. L'importante è che funziona la ventola, che con questo gallo facete pure l'aria condizionata a burro. Però funziona l'aria condizionata, funziona. Nella mia sì che funziona l'aria condizionata, è automatica anche. Questa è tutta automatica dentro, per farla funzionare. Ah, tutto automatico, roba elettronica tutta. Sì, è elettronica andiamo male. E lì c'è la marasucca, quando si guarda una cosa bisogna andare a intervenire su quel punto. Perché quelli hanno una scheda, c'è il cervello in pratica. Quello che devo cambiare si chiama stabilizzatore di velocità, perché siccome ha quattro velocità, no, inizia piano piano e poi va forte. Stabilizzatore di velocità si chiama. Adesso cosa ti fa di effetto? Cazzo, vivo più a montagne tutto, cavando il rubetto, gatta che... Boh. Togliendo e rimontando, noi lo deve lasciare fermo, ne toglie il vecchio e ci mette il nuovo, una volta ce l'ha lì a portata di mano, se non si può punire avanti, montanilo e lasciare la macchina ferma. Ma non fate che ne deve rimontare, mezza macchina ne deve rimontare da sotto, certo, è tutto a dare do alla pedaliera e c'è in asciuz. E andando nel bosco andava a vedere che non vedeva quanto questa attrezzatura in giro. Hai capito? E l'hanno messo lì. Adesso se vuoi arrivare devi smontare. Ehi, certo, Bacchi. Si arrangia meglio, anzi, l'operaio che va. Ah, ecco, io vabbè. Vieni, ragazzi, più tempo mi tocco, più dirà mi dati. Sì, no, è così, no. Il fatto che è un punto brutto, Andrà bene, è così, la vita è quella che bisogna spendere quattrini sulla macchina, bisogna spendere quattrini per l'uomo, bisogna spendere quattrini, sempre di no, se non bisogna di no si va di nulla. Infatti senza di no si va di nulla. Minimo già 50 euro di mano d'opera e 77 euro di gozo, di ricambio. Sì, ma almeno è messo nuovo, funziona migliore, c'è più affidabilità alla macchina. Così non sai se ti ferma o se si ferma. Quando la riparazione ci vuole si fa. Infatti. Bisogna fare così, bisogna fare. Ne andare bene. Aspetta, gira bene anche un buco di là. Allora bene, vedo. Adesso facciamo una cosa, lascio, andiamo giù e ci prendiamo le medicine. Tore, te saluto la signora e a sentirci domani e fatti vedere qualche busta. Ciao Tore, buona serata ancora, a domani, ciao. Sì, ci sentiamo Bacchi alle prossime, ok. E forse domani vengo lì vicino. Urugani, se no fate un bel gallo. Ci sentiamo, da. Vado a passeggiare e farlo camminare il cane che è drummito, i sugani. Sì, vai, è drummito, è dare da me, è drummito. La signora deve andare a pigliare, sempre che mi giamia. Chissà se è rientrata a me figliura. Ecco, va bene. Allora, ciao, buonanotte, ciao. Sentiamo Bacchi.